Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti, bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Oggi parleremo dell'era ancora in cui il pensiero era positivo, lontano dal nichilismo e dalla sfiducia. Il mondo in cui c'era la forte speranza di un divenire diverso e migliore. E lo facciamo, come sempre, seguendo le tracce del grande narratore per ragazzi Gianni Rodari, in parallelo con un'altra pietra miliare della letteratura italiana, Italo Calvino. Ancora una volta il rapporto fantasia-scienza diviene al centro di un ragionamento che non è solo letterario e umanistico in generale, che viene ben descritto in questo intervento di Pietro Greco, che un tempo era cronista e collega dello stesso Rodari e poi è diventato uno dei più importanti divulgatori della scienza e della tecnologia nel nostro paese. Gianni Rodari si chiede, ma io per chi sto scrivendo oggi? Perché io sono diverso da Collodi? Perché, lui dice, io scrivo per i bambini di oggi che saranno gli astronauti di domani, cioè bambini che domani vivranno in un universo cognitivo, con un modo di vivere, con una quantità di nuova tecnologia talmente grande che il mondo in quale io ho vissuto da bambino, il quale mio padre è vissuto da bambino, il quale mio nonno è vissuto da bambino, sono incommensurabilmente diversi. E mentre il mio mondo, di Gianni Rodari, quindi immaginate negli anni 20, 30, prima della guerra, oppure il padre all'inizio del Novecento, oppure il nonno nella seconda parte dell'Ottocento, vivevano in un mondo tutto sommato che non cambiava. E quindi lo scrittore che scriveva per i bambini non doveva cambiare molto, diciamo, l'ambientazione. E adesso lui si rende conto che l'ambientazione deve essere completamente diversa. Io scrivo per i bambini di oggi, astronauti di domani. E infatti lui scrive in un saggio che può essere considerato appunto un approfondimento critico, non è più una fiaba, che si chiama La grammatica della fantasia. Scrive, l'idea che il bambino d'oggi si fa del mondo è per forza tutt'altra da quella che se ne può essere fatta da bambino il padre stesso, da cui lo separano solo pochi decenni. Cioè in pochi anni il mondo è cambiato come mai era cambiato prima. E quindi, riassumendo, Gianni Rodari intuisce che l'umanità sta entrando in una nuova era, che occorre interpretarla questa nuova era, per interpretarla ma non solo per conoscerla, che non sarebbe poco, ma per indirizzarla verso un futuro desiderabile, e che per fare questo occorre una nuova chiave interpretativa, una grammatica della fantasia, e le sue fiabe sono appunto una delle grammatiche della fantasia che possono essere utilizzate. Proprio in quegli anni, sui giornali, sul Corriere della Sera in particolare, nasce una polemica culturale. Una grande scrittrice, Anna Maria Ortese, scrive una lettera aperta a Italo Calvino per dirgli: ma tutti sti razzi che stanno andando in cielo, stanno andando sulla luna, stanno distruggendo la poesia del cielo. E siccome noi viviamo in un mondo cattivo, io quando alzo gli occhi a cielo, diceva Anna Maria Cortese, mi sento consolata, quindi trovo consolazione nell'osservazione del cielo. Adesso me lo stanno rovinando, quindi la tecnologia sta rovinando l'immaginazione, sta erodendo la nostra capacità di immaginare, di fantasticare e anche di consolarci rispetto alle brutture del mondo. E Italo Calvino risponde: ma cara Anna Maria Ortese, tu ti sembra di fare un omaggio al cielo, ma in realtà tu lo stai strumentalizzando, lo stai un po'. Noi dobbiamo guardare al cielo per tenere presente, diciamo, le nostre cose qui sulla terra, diciamo, non possiamo guardare al cielo in maniera consolatoria, dobbiamo guardare al cielo per costruire un futuro appunto desiderabile, per uscire dal labirinto nel quale siamo. E qual è lo strumento per uscire dal labirinto in cui siamo? È la scienza, dice. Io non sono uno scienziato, dice Italo Calvino, ma certamente la scienza ci aiuta a costruire delle mappe del mondo necessarie ad uscire da questo labirinto, da questo nube che avvolge la nostra era contemporanea. Qui c'è tutta la discussione tra Calvino e la Ortese, ma il succo è sostanzialmente questo: lo scrittore non deve utilizzare la sua immaginazione per consolarsi o per consolare, ma per costruire un mondo migliore. E poi dice una cosa che è molto importante nel discorso letterario: il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo, appena si mette a parlare della Luna, innalza la sua prosa ad un grado di precisione, di evidenza ed insieme di rarefazione lirica prodigiosa. E la lingua di Galileo fu uno dei modelli della lingua di Leopardi, gran poeta lunare. Cioè altre persone hanno guardato al cielo, ma hanno guardato, come dico io, per costruire qualcosa di positivo sulla Terra. E questo crea un'altra polemica. Dopo che Italo Calvino ha scritto questa lettera sul Corriere della Sera, interviene Cassola, un altro scrittore, dice: Galileo, il più grande scrittore della letteratura, io pensavo che fosse uno scienziato, il più grande scrittore della storia della letteratura italiana è Dante. E Calvino poi risponde: sì, Dante è il più grande poeta, ma Galileo è il più grande scrittore. E quindi per Calvino, Galileo, uno scienziato, è il più grande scrittore della letteratura italiana. E quindi vedete che c'è un'unione di pensiero tra Calvino e Gianni Rodari. L'immaginazione dello scienziato e l'immaginazione del letterato sono analoghe, e in Galileo addirittura sono omologhe, è la stessa cosa, diciamo. Davvero straordinario. E poi dice: guardate che c'è una vocazione profonda della letteratura italiana, cioè i più grandi della letteratura italiana, Dante, Galileo, Leopardi, eccetera eccetera, utilizzano non solo l'opera letteraria come mappa del mondo e dello scibile, cioè come strumento per capire e per realizzare, ma lo utilizzano come strumento di filosofia naturale. In questa la letteratura italiana raggiunge il suo vertice con Dante, con Galileo, con Leopardi, quando c'è un matrimonio a tre tra scienza, letteratura e filosofia. E quindi questo è quello che dovremmo fare, dice Italo Calvino. Bene, anche Rodari, come Italo Calvino, in quegli anni alza gli occhi al cielo. Ho utilizzato questa frase perché Italo Calvino, proprio alla fine degli anni 50, scrive un nuovo romanzo in cui parla della tribù che alza gli occhi al cielo. La tribù è tutta l'umanità, quindi anche Italo Calvino è colpito dalla nuova era dello spazio, delle astronavi che volano nello spazio, e quindi parla di una tribù che eleva gli occhi al cielo per capire se stesso. Bene, questo cambiamento di questa nuova era, questo cambiamento tecnologico, sono espressione di una potenza straordinaria della tecnologia umana, capace appunto, tra l'altro, di vincere quello che sembra davvero invincibile, la forza di gravità della Terra, che non è proprio quella di un buco nero, però insomma nel suo piccolo anche la Terra c'è una forza di gravità importante. Il cielo vicino e lontano, vedo sempre il cielo. Ricordo lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi. Si può volare oltre le nuvole, ma sempre in alto tu vedrai. Cielo, si perde il pensiero quando guardo il cielo, ed ecco ritorna il ricordo dolce che ho di te. Si può volare tra le stelle, ma sempre in alto troverai il cielo, e al cielo ognuno rivolge sempre una preghiera. Oh cielo, oh cielo, perché mi fai tornare insieme a me? Il cielo, la terra finisce e la comincia il cielo. Ed ecco, ecco, ritorna il ricordo dolce che ho di te. E là comincia il cielo. Ed ecco, ecco. Il cielo di Lucio Dalla. E per riportare il cielo in terra, anche la letteratura contemporanea si confronta con questa dimensione spaziale. Racconta anch'esso di un firmamento da riportare coi piedi sulla terra. Ma visto che abbiamo citato i buchi neri, veniamo invece alla letteratura contemporanea per ragazzi, quella che appunto ha portato l'infinito dentro casa in un ennesimo connubio tra fantasia, fantascienza e scienza. Visto che abbiamo parlato di buchi neri, la parola diamo a Simona Sagone dell'associazione Iocali del nostro polverone magico, che ci introduce un testo che appunto parla dell'infinito dentro casa. Fantastico viaggio di Stella di Michel Cuevas, edito da Dea Planeta, un libro che vede per protagonista una bambina che si chiama Stella, che ama l'astronomia e che incontra un microbuco nero sull'autobus. Vedi che incontri si possono fare sull'autobus, che la segue come un cucciolo e che lei comincia ad allevare come fosse un animale domestico, niente di meno. Questo buco nero finisce per ingurgitare tutti i suoi oggetti più cari e fino anche i suoi ricordi preziosi del padre morto, la cui assenza pesa sul suo cuore come un enorme buco nero. Buchi neri dentro e fuori. Vieni qui, gattino, ho detto mentre mi avvicinavo. Per favore, non fare la puzzola. Ho fatto qualche passo avanti, lentamente con cautela, cercando di vedere la bestiola. Ma quando la mia torcia ha illuminato l'interno della scatola, quello che ho visto non era un gattino o un cagnolino. Non era neanche una puzzola. Era buio. E mi sono allontanata dalla scatola barcollando. Sono inciampata sul marciapiede e ho lasciato cadere la torcia. Quando finalmente l'ho recuperata, mi tremavano le mani mentre cercavo di puntarla di nuovo su quello che mi sembrava di aver visto. La cosa dentro non c'era più. Ho agitato la torcia all'impazzata e ho scovato la creatura che strisciava insidiosa verso di me. Non sembrava avere gambe o braccia, era solo un mucchio di buio, non più grande che un coniglio. Ma non un buio normale, no! Questo era un buio come il buio dentro un vecchio libro chiuso, fatta eccezione per i due occhi. Occhi che scintillavano, sembravano avere dentro minuscole galassie. No! Ho gridato puntando la cosa, in risposta si è guardata alle spalle per vedere cosa ci fosse di così pauroso. Stai lontano! Ho detto, ma ogni volta che mi allontanavo di un passo, la creatura mi strisciava un po' più vicino. E in effetti, dal modo in cui si muoveva e dallo sguardo nei suoi occhi, ho avuto la sensazione più pazzesca del mondo. Vuole che lo accarezzi. Ma non sono mica matta. Piuttosto gli ho puntato la torcia negli occhi, sperando che fuggisse via. con mia grande sorpresa, però la torcia non ha illuminato la creatura, ma è semplicemente scomparsa dentro di lei. Un attimo prima la torcia era lì e un attimo dopo era andata, assorbita, senza lasciare nessuna traccia. Ma che diavolo? Mi sono domandata. E poi, nel tenue bagliore del lampione, la creatura ha fatto un tremendo rutto pieno di luce. Ah, probabilmente ti starai domandando cosa ho fatto dopo che la creatura nella scatola di cartone ha ingoiato la mia torcia, giusto? Sono corsa via, ho chiamato la Guardia Nazionale, sono svenuta, boh, ho fatto quello che credo avresti fatto tu. L'ho invitata dentro per ripararsi dalla pioggia. Ecco, questa è la mia camera, le ho spiegato, è piccola ma accogliente. Non avevo ancora toccato la creatura. Quando mi sono riavviata verso casa, lei mi ha semplicemente seguito. Non sembrava pericolosa, ma d'altra parte come faceva a saperlo? Magari mi stavo cullando nell'illusione di essere al sicuro, con i suoi occhi puntati, languidi, e da un momento all'altro mi avrebbe sbranato. La cosa ha iniziato a ingoiare oggetti nella mia stanza. Niente di importante, e qualche batuffolo di polvere e alcune non identificabili opere d'arte che Cosmo, mio fratello, aveva disegnato per me. Ho rovesciato per terra un barattolo di monete, sperando che tenessero la cosa occupata mentre io facevo una lista. Cose che so della cosa. Molto, molto scura. Niente mani né gambe, solo una massa informe. Ha gli occhi, credo. I suoi occhi sembrano piccole galassie. Fa sparire qualsiasi cosa desideri. Gli piace mangiare torce, polvere mediocre, opere d'altre, monete, docile, per adesso. Sembra che voglia essere accarezzata. La prima cosa che ho pensato è stata: alieno? È un extraterrestre che è scappato dalla NASA e mi ha seguito fino a casa. Ma da quel che sapevo, gli alieni sono verdi, hanno braccia e gambe e non vogliono essere coccolati come un cucciolo. Sono la fiera padrona di un buco nero domestico, mi sono chiesta. E noi non siamo figli delle stelle, figli della notte che gira il giorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, e ogni sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per voi, perderci nel tempo. Ho bisogno di tutti i libri che avete su come addomesticare un cucciolo, ho detto. Mi trovavo in biblioteca ed ero agitatissima. Cosa starà mangiando adesso Larry nella mia stanza? Era tutto quello che riuscivo a pensare. Larry era il nome che gli avevo dato, diminutivo di singolarità, che avevo letto. Era un punto in cui la forza di gravità è infinita nel cuore del buco nero, e che ovviamente è il diminutivo di cosa che divorerà tutta la nostra casa se non faccio qualcosa e subito. Non volevo neanche dargli un nome. Se dai un nome a qualcosa poi ti ci affezioni. Ma lui si rifiutava di rispondere e quindi sono stata costretta. Ho provato altri nomi più fichi. Che ne dici di Nox o Po o Zorro o Inchiostro? Ho proposto. Li ha ignorati tutti. E che ne dici di Larry? Ho chiesto. Il buco nero si è tutto ringallozzito subito. Fantastico! Ho detto, alzando gli occhi al cielo. Magari la prossima settimana possiamo cercare un unicorno e chiamarlo Steve. La bibliotecaria al banco sorrideva verso di me. Vuoi qualche libro sugli animali? Ha chiesto. Che dolce, che cane hai? Uno molto affamato. Ho risposto. La bibliotecaria mi ha trovato 3 libri. L'enciclopedia del cane buono, l'arte di crescere un cucciolo felice e il mio preferito, un cucciolo perfetto in 7 giorni. Ho immaginato che il mondo intero sarebbe sparito entro una settimana se avessi fallito. Il problema di addomesticare un buco nero, nel caso te lo stia chiedendo, è che nessuno sa niente di loro. È tutto un in teoria di qui, forse chissà, ipoteticamente di là. Mentre sfogliavo i libri su come addomesticare i cani, continuavo a leggere sempre la stessa cosa. Siate incoraggianti! È come se ogni volta che il cucciolo fa qualcosa di giusto, uno dovesse fargli un regalo, per esempio un biscottino. Ma cosa avrei potuto regalare a un buco nero? Stavo per trovare la mia risposta. Sputalo! Ho gridato a Larry. Appena rientrata dalla biblioteca, ho trovato un buco nero molto soddisfatto e una gabbia di criceto molto molto vuota. Come hai potuto mangiarlo? Voglio dire, puzzava così tanto! La nostra classe ha tentato di tutto contro il puzzo del nostro cucciolo di classe, il fetido stu. Abbiamo scrupolosamente ripulito la sua gabbia, gli abbiamo fatto il bagno, l'abbiamo strigliato, l'abbiamo perfino tamponato con oli ed essenze, come un minuscolo re peloso. Non ha funzionato nulla, puzzava ancora come un gratta e sniffa rotto di ippopotamo, come una discarica piena di rifiuti, come un romantico bouquet di uova marce. E mi avevano affidato il devastante compito di occuparmi del fetido roditore per tutte le vacanze scolastiche. Io l'avevo fatto divorare dal buco nero. Come avrei spiegato ai miei compagni? La piccola ruota del fetido stu cigolava in modo sinistro nella sua gabbia, ma nessuno ci correva dentro. E così, prima di trovare il tempo per addomesticare Larry, ho dovuto tornare di corsa in città al negozio di animali per comprare un sostituto. Dopo essere rientrata a casa, Cosmo mi ha sorpreso in cucina mentre spalmavo addosso al nuovo stu un nauseante formaggio che avevo trovato in fondo al frigorifero. «Cosa stai facendo?» ha chiesto Cosmo. «Cosa ti sembra che stia facendo?» «Ovviamente sto cercando di far puzzare questo criceto!» «Oh!» ha detto Cosmo, facendo spallucce. «E ha preso una mela e è andato via. A proposito, bisogna ammettere che i tipi strambi non trovano minimamente strambe le cose più strambe. Quando sono salita in camera ho messo un nuovo stu nella gabbia vuota di fedito stu e sono collassata sul mio letto completamente esausta!» «Non prenderla male», ho detto al buco nero, «ma sei infinitamente più impegnativo di una pietra domestica». Avete ascoltato alcune pagine da Il fantastico viaggio di Stella, edito da Dea Planeta. Visto che il romanzo di Michel Cuevas parla di astronomia e di buchi neri, seppure in forma romanzata, rivolgeremo qualche domanda a un esperto di Sophos Divulgazione delle Scienze, Antonio De Blasi. Spieghi in parole povere cos'è un buco nero e se davvero esistono dei cunicoli spazio-temporali in questi buchi neri come nel romanzo, se è solo roba da fantascienza. Ahimè, è solo roba di fantascienza, cioè di fantascienza, non lo sappiamo, quindi diciamo che la fantascienza va sempre più avanti della scienza, quindi non è detto che più in là scopriremo che effettivamente i buchi neri possono essere, come dire, delle porte che uniscono punti distanti dello stesso universo, o addirittura ci permettono di andare da un universo all'altro. Al momento è fantascienza, certamente, però chissà, lasciamo uno spiraglio. Cosa sono i buchi neri? È una bella parola, ma non è facile dare una definizione, perché in realtà non sono né dei buchi e non sono neanche neri. Ecco. Dice, allora perché li chiamiamo buchi neri? Convenzione. Allora, sono degli oggetti che producono una forza di gravità talmente intensa, talmente forte, che neanche la luce riesce ad allontanarsi, per cui noi in realtà il buco, quello che chiamiamo nero, è che in realtà non lo vediamo, cioè se noi andiamo a puntare il nostro sguardo in una direzione del cielo dove sappiamo per altre strade che c'è un buco nero, noi a occhio nudo non vediamo nulla, proprio perché la luce viene intrappolata al suo interno, quindi noi la sua immagine non ce l'abbiamo. Abbiamo però quello che causa attorno a se stesso, perché con la sua forza di gravità talmente forte incomincia ad attrarre stelle, anche galassie attorno a se stesso, finché questi oggetti che ruotano sempre più velocemente attorno ad esso, a un certo punto cadono al suo interno, in quello che noi chiamiamo orizzonte degli eventi, cioè una zona dove noi non riusciamo più a osservare nulla, proprio perché una volta che l'oggetto, qualunque cosa, anche la luce stessa, cade dentro questa, all'interno di questa superficie, che è una superficie matematica, vi rimane intrappolato, e noi che siamo al di fuori non vediamo più nulla. Quindi un buco nero non è altro che un oggetto che produce una forza di gravità talmente forte che incomincia a rosicchiare, a mangiare, a divorare tutto quello che gli è attorno, e tutto quanto cade al suo interno come se fosse un imbuto all'interno del nostro spazio, e tutto sparisce. Dove va a finire non lo sappiamo, perché non abbiamo gli strumenti matematici e fisici per descrivere la fisica che c'è all'interno di queste zone particolari dell'universo, dette anche singolarità. Noi non abbiamo strumenti matematici, quindi possiamo solo pensare, ipotizzare, eccetera. Per cui non sappiamo, perché uno giustamente dice, vabbè Antonio, ma un buco nero mi mangia una stella come il Sole, dove va a finire? La materia viene compressa, concentrata, fino a degenerare in una pallina di 2-3 centimetri di diametro. Però come si trovi questa materia poi non lo sappiamo, perché non abbiamo, ripeto, la fisica che ci spiega lo stato di questa materia. E da lì parte la fantasia. certo. Perché addirittura i buchi neri, c'è chi ipotizza che emettano, anche evaporino della materia, questo un po' per giustificare il fatto che a un certo punto un buco nero, cioè dove va a finire tutta questa materia. Allora qualcuno ipotizza, no, ma nel tempo lentamente i buchi neri anche evaporano e quindi la riconsegnano nello spazio, ma dove? Noi non la vediamo, non lo sappiamo. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Spazio per Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, uno spazio legato alle celebrazioni dei fumetti, curato da Gianluca Omigliacchi, della fanzinoteca fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. I grandi fumetti. Il 1929 è anche l'anno d'avvio dei fumetti di Tarzan. Il personaggio nasce dalla fantasia dello scrittore statunitense Edgar Rice Burroughs ed è protagonista, a partire dall'ottobre del 1912, di una serie di romanzi e di racconti tradotti in oltre 50 lingue, con una tiratura globale che supera i 100 milioni di copie. Protagonista anche di una lunghissima serie di film, ma soltanto nel gennaio del 1929 esordisce nel mondo del fumetto, sui quotidiani statunitensi, ovvero quando l'avventura irrompe nella nona arte, con i suoi primi grandi personaggi. Le storie e fumetti di questo eroe sono realizzate da numerosi sceneggiatori e da molti altri disegnatori. È impossibile citarli tutti, ma riteniamo opportuno ricordare il primo disegnatore di Tarzan, Harold Foster. Thank you.